Ho creduto, perciò parlo. Salmo 116, 10. È stato detto che un credo si possa discutere, ma non una testimonianza. Si può discutere come Paolo si sia convertito, ma non se ne può negare la conversione. Poiché ogni persona convertendosi a Gesù Cristo ha un'esperienza unica che mette in risalto l'amore di Dio, anch'io desidero dare la mia testimonianza. Sì, io ho creduto e per questo non posso tacere. Ripensando alla vita che Dio mi ha dato da vivere prima di chiamarmi in comunione con suo figlio e con il suo popolo, posso ricordare 7 preghiere che hanno determinato la mia conversione. Quando sono nato, il 26 maggio del 1943, non c'era nessuno ad aspettarmi. I miei genitori aspettavano la nascita di un bambino o di una bambina, ma non erano pronti per un parto gemellare. Così, dopo la nascita di mia sorella, sorpresi tutti con la mia comparsa. Mio padre morì, che avevo 13 mesi, e mia madre, vivendo in grandi ristrettezze, appena poté mise mia sorella in un orfanotrofio. Io, a 10 anni, andai in colonia, cioè in un collegio, a Monfestino di Serramazzoni nel Modenese, e vi rimasi per tutto il periodo scolastico, ritornando alla casa materna soltanto durante le vacanze estive. Tornai definitivamente con mia madre solo dopo il conseguimento della licenza di terza media. Fin da piccolo ho avuto coscienza della presenza di Dio e lo cercavo secondo gli elementi religiosi che mi venivano insegnati. Un giorno, che ricordo ancora vivamente mentre giocavo con i miei compagni di scuola, spinto da un impulso irresistibile, mi appartai in un luogo solitario fuori del recinto della colonia. Mi misi in ginocchio e pregai: O Signore Dio, io so che tu esisti, che hai creato il mondo e ogni altra cosa. Questo è meraviglioso, però io vorrei sapere chi sei, ho un profondo desiderio di conoscerti. In seguito, di tanto in tanto, quando avvertivo lo stesso impulso, ritornavo in quello stesso luogo e parlavo con il mio creatore. Intanto gli anni passavano e io continuavo ad osservare con sincerità di cuore le regole religiose che mi erano inculcate. Il giorno più bello per me era la domenica, perché al sabato sera mi confessavo e pensavo che, se fossi morto in quello stato, sarei andato in cielo. Quella gioia però durava poco perché, vivace com'ero, non mancavo di imbattermi subito in nuovi e vecchi errori. Il giorno in cui conseguii la licenza media, andai nella cappella della colonia, mi inginocchiai e, pregando con un cuore aggravato, dissi: O Signore, fino ad ora sono vissuto in questa colonia e sono stato protetto da tanti errori, ma ora devo lasciare questo luogo per andare nel mondo. Io so di essere debole e incapace di resistere alle tentazioni. Signore, ti chiedo perciò pietà e, prima che mi succeda di compiere delle cose sbagliate, voglio dirti che ti amo e desidero conoscerti. Se mi allontanerò da te, sappi, o Signore, che non l'avrò voluto. Il successivo impatto con il mondo fu inevitabile e prevedibile, pieno di problemi, di complessi, di paure. Mi uniformai presto alle regole, perché capii subito che, se volevo vivere in armonia con gli altri, dovevo accettare i principi e i metodi della società. Cominciai così ben presto a fumare, a bestemmiare, a partecipare alle ragazzate con i miei compagni e a concupire senza freno ogni cosa. Iniziai anche a frequentare le sale da ballo, che divennero per me una vera passione. Per una sola cosa, rimasi indenne dalla cultura del mondo: i miei sentimenti amorosi. Mentre i miei compagni seducevano le ragazze, per poi abbandonarle, io non riuscivo ad avviare nessun rapporto. Il mio cuore però era profondamente insoddisfatto. Una sera, tornando a casa da uno spettacolo cinematografico, alzai gli occhi al cielo e pregai: O Signore, se tu stasera mi offrissi qualunque cosa, io ti chiederei di darmi sapienza. Io desidero conoscerti, desidero capire la vita che sto vivendo. N.I.E. Nuovo Testamento e altro. Intanto, la sera prima di dormire, leggevo i 4 Evangeli che avevo ottenuto con insistenza dal parroco della colonia. Più leggevo gli Evangeli, più sorgevano interrogativi.

ma un credente che commetteva il peccato fondamentale, quello che impedisce all'uomo la salvezza, vivere la vita a modo suo. Vivevo secondo i miei parametri religiosi e quelli che mi avevano insegnato. Dio era un ospite nella mia vita, ma non il padrone della mia volontà. Vivevo senza l'autorità di Dio e, se fossi morto, sarei andato in un luogo dove la sua presenza e il suo amore non avrebbero potuto raggiungermi. Religioso e senza Dio in questa vita, sarei rimasto tale, per l'eternità. Non dissi nulla a nessuno di questa mia esperienza, ma tutti si resero conto che non ero più io, anche se in quei giorni compivo 21 anni, come un bambino appena nato, provai quattro fondamentali istinti fino allora sconosciuti: lo stimolo di leggere la parola di Dio, la necessità di stare in comunione con Dio, il desiderio di stare con coloro che avevano fatto la mia stessa esperienza e l'avversione verso tutto ciò che non piaceva a Dio. Come diretta e immediata conseguenza di tutto questo, cambiò il mio rapporto con gli altri. Ogni tanto parlavo di Gesù e di ciò che egli aveva fatto nella mia vita con i miei amici e parenti, ma essi mi rispondevano che erano cose da pazzi. Non fui io a lasciare il mondo. Fui il mondo a non accettarmi più. Quanto alla ragazza che avevo conosciuto, andai a ballare per l'ultima volta per invitarla a venire con me, ma il suo rifiuto fu categorico. Non fui io a lasciare i religiosi. Furono loro che smisero di accettarmi. Io testimoniavo che Gesù era morto per i miei peccati e perciò ero certo della salvezza. Essi però mi rispondevano che disturbavo le loro riunioni. Cominciai allora a frequentare le persone che leggevano la parola di Dio e che avevano con Dio una relazione simile alla mia. Dopo alcuni mesi incontrai i miei vecchi amici che mi dissero in tono di scherno: «Allora adesso ti sei messo ad andare con gli evangelici!» Rimasi senza parole, perché non sapevo chi fossero queste persone. Quando chiesi loro spiegazioni, i miei amici rimasero ancora più stupiti. Non avevano compreso che io avevo consacrato la mia vita a Cristo Gesù, e non a un gruppo religioso. Se stavo con quelle persone, non era certo per il nome che portavano, perché esso veniva disprezzato. Non era perché fossero perfette, ma perché avevano incontrato Dio per mezzo di Gesù Cristo, perché amavano ciò che io amavo, perché odiavano quello che io odiavo, e perché la loro autorità, in ciò che riguardava la loro fede e condotta, era la parola di Dio. Così, quel mese di maggio del 1964, scoprì una vita tutta diversa, abbondante, soddisfacente e fruttuosa. Misi subito i doni che Dio mi aveva dato, come del resto dà a ogni credente, al servizio della Chiesa locale, come di quella universale. Provai cosa significhi gioire e soffrire con e per i figli di Dio. Adesso mi rendo conto perché Dio non mi abbia fatto con... Non avrei potuto afferrarle perché si giudicano spiritualmente. 1 Corinzi 2,14, perché occorre avere la mente di Cristo, 1 Corinzi 2,16, e poi avrebbero forse contribuito a farmi indietreggiare da Dio piuttosto che avvicinarmi a Lui. Mi sarebbe successo come al popolo di Israele, che volle conoscere in anticipo com'era la terra promessa. Saputolo, si spaventò e si ribellò a Dio. La dura conseguenza di questo peccato fu il vagare nel deserto per ulteriori 38 anni. Oggi capisco anche perché lo Spirito Santo mi parlasse al tempo della mia ricerca di Dio, facendomi riflettere sulle parole di Gesù: a chi ha sarà dato, ma a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha. Egli mi stava responsabilizzando affinché arrivassi a sfruttare ogni dono ricevuto, altrimenti, con la trascuratezza, avrei perso quel poco che possedevo. E oggi mi sento responsabile. Egli ha fatto di me una nuova persona, capace d'amare e di essere amata. Ho ricevuto la pace di Dio, la gioia di sapere di appartenergli. Ho lo Spirito Santo. Possiedo la parola di Dio nella mia lingua e posso leggerla quando voglio. Appartengo alla famiglia di Dio e godo la comunione con i suoi figli. Sono circondato da tante persone che mi vogliono bene e mi hanno accettato così come sono. Sento dunque il bisogno e la gioia di essere un suo testimone di ciò che egli è e di quello che egli ha fatto per tutti e per me. senza contare poi tutte le benedizioni ordinarie di cui godo. Ho una salute fisica e mentale, Dio mi ha dato una famiglia e dei nipoti meravigliosi, mia madre non è contraria alla mia fede, mia sorella mi rispetta, i miei amici invidiano la mia fede, vivo nel benessere, ho la libertà religiosa e politica, ho la pace nel cuore, ho delle buone amicizie, possiedo il sorriso, ho la possibilità di godere del creato, di osservare lo sguardo innocente di un bambino, lo sguardo luminoso degli innamorati, lo sguardo spetto degli anziani, e non mi fa paura la cruda realtà della morte. Meravigliose sono le tue opere, e l'anima mia lo sa molto bene. Salmo 139, 14. Quando sono nato non c'era nessuno ad aspettarmi, ma Dio mi attendeva prima della fondazione del mondo. Mi ha amato quando sono stato concepito, mi ha baciato e ribaciato in tutta la mia esistenza. Ogni cosa sua è mia. Luca 15, 20 e 31. Ma ciò che mi fa saltare dalla gioia è che il suo amore mi seguirà per l'eternità, perché Dio è amore e mi ama come ha amato suo figlio Gesù. Giovanni 17, 23. Maggio 1998. Ellero.